2001 siamo allo stadio Main Road di Manchester, dove gioca il Manchester City, però si sta giocando il derby con lo United. Siamo a 5 minuti dalla fine, 1-1, la palla è sulla tre quarti del City, che col norvegese Haaland sta cercando di intercettare il pallone. Bene, il giocatore del City non fa nemmeno in tempo a toccarlo quel pallone, che è una forza, lo sovrasta, una forza sovrumana che lo fa ribaltare, lo manda a gambe all'aria, lo fa schiantare a terra. Bene, quella forza ha un nome, un cognome, un numero di maglia, il 16, e una fascia da capitano legata al braccio sinistro. Quel tornado che ha investito il povero Haaland si chiama Roy Keane, ha 30 anni e gioca nel Manchester United. Roy Keane on Haaland. It's a red card issued by David Ellery to Manchester United's captain for the fourth time. Dagli spalti piovono insulti di ogni tipo. Roy non fa una piega, si rialza, non ha neanche bisogno di vederlo quel cartellino rosso che l'arbitro gli sta mostrando. Si incammina verso gli spogliatoi a testa bassa e sa che quello è quello che deve succedere. È un momento di follia, ne ha avuti tanti nella sua carriera. Questo sembra più grave del solito: un intervento piede a martello a colpire la gamba d'appoggio dell'avversario. Poteva rompergliela quella gamba, riguardando le immagini al replay sembra proprio che quella fosse la sua intenzione iniziale, una vendetta in piena regola, far male a Haaland per una questione vecchia di più di 3 anni. Aspettavo Alfie da 180 minuti o 3 anni, a seconda di come uno vuole vedere la cosa. E poi a un certo punto gli arrivò quella palla sulla fascia, mi stava prendendo in giro, ormai avevo aspettato abbastanza e così entrai duro. C'era anche la palla, mi pare. Beccati questa, stronzo, e non permetterti mai più di accusarmi di simulare. Il precedente tra Haaland e Keane era andato in scena nel 1997. La partita era Leeds Manchester United, c'è un contrasto tra i due, Keane ha la peggio e si rompe il legamento crociato anteriore del ginocchio, non riesce a alzarsi. Haaland, che non è un avversario simpaticissimo, gli urla addosso di tutto, lo accusa di essere un simulatore, lo invita a rialzarsi e lo fa con le cattive maniere. Keane non ce la fa. Se ce l'avesse fatta si sarebbe alzato e avrebbe sicuramente mollato un cazzotto in pieno viso a Haaland, e viene portato fuori dal campo in barella, ne avrà per diversi mesi prima di poter ricominciare a giocare. Ma per lui l'affronto è troppo grave, rompimi pure il legamento ma non mi dare del simulatore. E lui, come uno psycho killer, comincia a meditare una vendetta che sarebbe arrivata più di 3 anni dopo e che avrebbe fatto diventare per sempre Roy Keane un uomo vero, ma forse anche un cattivo del calcio. Eamon Dunphy di professione fa il ghostwriter, cioè lo scrittore ombra che aiuta le celebrità a pubblicare le sue biografie, e nel 2002 ha un cliente speciale, lui, Roy Keane, nato il 10 agosto 1971 a Cork, nel sud dell'Irlanda. È passato poco più di un anno da quel fallo a Haaland. Nel libro sulla vita di Keane quel fallo verrà trattato ampiamente. Haaland si è ritirato dal calcio, accusa Roy di aver sfruttato quello che è accaduto per vendere più copie della sua biografia, si va a processo, viene chiamato a testimoniare Dunphy, il ghostwriter. Alla domanda: secondo lei il signor Keane ha deliberatamente cercato di far male al suo collega, il signor Haaland? Lui risponde: sì, senza dubbio. Parole che pesano come un macigno sulla carriera di Roy Keane, che era iniziata all'alba degli anni 90 sotto la guida di un mito del calcio inglese, una carriera che adesso sembra destinata a chiudersi presto con un timbro pesante, con l'accusa di essere una specie di serial killer del pallone. Fu Brian Clough a darmi la possibilità di giocare in Inghilterra. Mi tirò fuori offrendomi un contratto che mi piace pensare essermi meritato. Non direi mai per nessun motivo qualcosa di brutto sul conto di Brian Clough, perché lui con me è stato meraviglioso, un mister meraviglioso e una persona meravigliosa. Io mi identificavo moltissimo in lui e lui era severo con me. Una volta mi tirò anche un pugno e io pensai: so perché lo hai fatto. Nel 1990 Brian Clough è un mito vivente del Nottingham Forest, abbiamo parlato di lui, io ne ho fatto la trasmissione in ginocchio praticamente. Lui guida la squadra da 15 anni, ha portato a casa a Nottingham due coppe dei campioni, cioè un evento epocale, peraltro vincendo uno scudetto solo, che è una cosa ancora più strana. Decide di dare una chance a questo ragazzo che ha trovato in Irlanda in un club semiprofessionistico. Roy Keane arriva a Nottingham, non ha ancora 20 anni, ma si vede già dal primo allenamento che lui non ha paura di niente, neanche dei suoi compagni di squadra molto più esperti. È un giocatore instancabile, perché stiamo parlando di uno che gioca molto bene. Clough lo promuove subito titolare e lui rimane 3 anni a Nottingham, 60 partite, 13 gol, uno dei giocatori più cercati del mercato. Alla fine la spunta lui, Sir Alex Ferguson, che lo sceglie per il suo Manchester United. È il 1993, è un anno di svolta per la carriera di Roy Keane. Keane è stato un giocatore energico, sanguigno e con le palle, con un ottimo istinto per il gioco e le sue strategie. Nel periodo in cui lavorammo insieme, fu la presenza più autorevole nello spogliatoio. Roy prese su di sé la responsabilità di mantenere alta la motivazione nello spogliatoio e ogni allenatore sa quanto vale questo tipo di aiuto da parte di un giocatore. Un irlandese a Manchester, il pensiero va subito a George Best, maglia numero 7, genio e follia. Beh, Keane in comune con Best ha solo la terra di nascita e la follia, per il resto è un altro calciatore, ha un'altra personalità, un altro modo di giocare, non ha l'estro di George Best, però è uno sul quale si può contare sempre. Peraltro si unisce a uno spogliatoio dove c'è gente che si chiama Eric Cantona, Brian Robson, Paul Ince e poi dei ragazzini che si chiamano Neville, Scholes, Giggs e soprattutto Beckham. Insomma, un gruppo destinato a entrare nella storia di Manchester, del Manchester United, direi della storia del calcio mondiale. Il gruppo che dall'86 Alex Ferguson ha plasmato con pazienza. Insomma, Roy non poteva trovare da altre parti un ambiente così adatto alla sua voglia di vincere. Qui tutti lavorano solo per raggiungere quell'obiettivo e Keane fin dal primo anno comincia a mettere già titoli in bacheca, il double, campionato e coppa nazionale, convocazione da parte dell'Irlanda per andare a giocarsi i mondiali americani del 94, insomma niente male per un ragazzo di 23 anni. Nel frattempo ci sono state due tragedie, l'Isel nell'85 e pochi anni dopo Hillsborough. Le tragedie hanno costretto il governo inglese a prendere dei provvedimenti, a arginare il problema degli hooligans, anche perché l'Inghilterra vive una specie di isolamento perché è stata esclusa per anni dalle coppe europee. Qualcuno sosteneva che le mosse di allontanamento degli hooligans in realtà abbiano allontanato il calcio dalla gente, però sono state mosse indispensabili. Da lì è nato quello che oggi è sicuramente il campionato più spettacolare del mondo, secondo me anche il più bello, sicuramente il più spettacolare. Beh, la Premier League che conosciamo oggi nasce dalle ceneri di quelle tragedie e dal fatto che in Inghilterra le leggi si fanno e poi si fanno anche applicare, non come succede in altri posti tipo noi. E da quel momento in poi cominciano ad arrivare calciatori, tecnici anche dall'estero e gente che ha fatto diventare grandi dei club che prima vivevano momenti difficili. Uno di questi club è sicuramente l'Arsenal, l'avversario storico del Manchester United dalla fine degli anni 90 fino ai primi 2000. Io e Vieira eravamo in prima linea in questa rivalità tra Manchester United e Arsenal. Le nostre squadre giocavano a livelli eccellenti, entrambi adoravamo i contrasti. Il nostro gioco era molto fisico e io non lo sopportavo. Oddio, forse lui mi adorava, chissà. Di sicuro a me lui non piaceva. Ma una cosa è certa, lui stava dando il massimo per la sua squadra e io per la mia. Non mi piaci, ma non vedo l'ora di affrontarti. La pensavamo così. E poi non mi dispiacerebbe affatto se giocassi nella mia squadra. Keane ormai è diventato una colonna della squadra. Lewis, Michael, Stam, Andy Cole sono quelli che comandano nello spogliatoio, quelle buone e quelle cattive, quelli che dettano le regole di comportamento, e Keane in campo pretende di fare lo stesso. Ma lì e ci sono anche gli avversari e bisogna fare i conti con loro. Uno di questi avversari è Patrick Vieira, capitano dell'Arsenal, e i due giocano nella stessa zona di campo. Tutte le volte che si incontrano se le danno di santa ragione, se ne dicono di tutti i colori, e spesso l'arbitro si trova proprio a dirigere un match di box quando Keane e Vieira entrano in rotta di collisione. Nessuno dei due ha paura, nessuno dei due indietreggia di un centimetro. Insomma, negli anni la tensione tra loro aumenta fino a raggiungere l'apice nel 2005, quando le squadre sono ancora nel tunnel che porta sul prato di Highbury. Avete sentito? C'è da spaventarsi. Questi sono i giocatori dell'Arsenal e del Manchester che stanno per entrare in campo. Sono concentrati, non fanno neanche caso alle telecamere che li stanno riprendendo. Quelli dell'Arsenal se la stanno prendendo con Gary Neville, che è uno dei più mansueti dello United. Keane capisce che sta succedendo qualcosa che non gli piace, va in soccorso del compagno, lo fa a modo suo, e se la prende con Vieira. Vieira è francese, in realtà è dell'uomo delle colonie, e lui, Keane, gli urla di tutto e soprattutto gli dà appuntamento in campo. Il tunnel di Highbury era strano, una specie di vicolo. Si creava sempre una tensione in quel budello e nelle partite in notturna ancora di più. Mi ero dimenticato la fascia e così tornai indietro. Tornando verso il campo sentii che stava succedendo qualcosa dall'altro lato del tunnel, ma l'unica cosa che vidi furono delle dita puntate contro Gary Neville. Persi il controllo. Immaginavo che se la sarebbero presa con lui in campo, ma addirittura nel tunnel. Stavano cercando di metterci paura. Erano uno squadrone e in quel tunnel lo sembravano ancora di più. Prima della partita avevo letto del lavoro di beneficenza che Patrick Vieira stava facendo in Senegal, il paese in cui è nato. Diceva che gli piaceva molto tornarci di tanto in tanto. E così gli chiesi: ma se ami tanto il Senegal, ma perché cazzo non giochi per loro? Lui, credo, fece una battuta sull'Irlanda e i mondiali. A quel punto, per fortuna, intervenne l'arbitro, Graham Paul, e disse: adesso basta, lascia perdere. È quello che sto facendo, risposi. Su, usciamo. E in campo non c'è storia, la partita finisce 4-2 per lo United. Roy Keane anche stavolta ha vinto la sua personale battaglia contro uno dei suoi più acerrimi nemici, Vieira, uno di quelli che si è trovato a avere a che fare col carattere, con la rabbia di Roy Keane, il cattivo del Manchester di Ferguson. Si dice Nemo profeta in patria, nessuno è profeta a casa sua, ma non è un detto che vale per Roy Keane, perché lui è diventato un grande calciatore in Inghilterra, anche perché i campionati irlandesi, insomma, sono poca cosa tecnicamente, però lì non si sono dimenticati di lui. In Irlanda è un idolo indiscusso, è lui il capitano della nazionale che nel 2002 va a giocare la Coppa del Mondo in Corea e Giappone. L'Irlanda ha tutte le carte in regola per fare una bella figura, nessuno però ha fatto i conti con i sempre più frequenti blackout che colpiscono la mente così aggressiva e terribile di Roy Keane. If you could do one thing again. Se tu avessi la possibilità di fare di nuovo una cosa nella tua vita, quale sarebbe? Giocare la Coppa del Mondo. Sarebbe bello giocarla, pensando a tanta gente che è rimasta delusa, particolarmente alla mia famiglia. Ma se tu non mi rispetti, come puoi pensare che io giochi per te? Io non stavo giocando per loro, stavo giocando per il mio paese. Avrei voluto far cambiare la loro attitudine, avvicinarci più ai metodi della Germania, del Brasile. Ma perché non potevamo prepararci come facevano loro? Alla gente piace parlare di perfezione, di quanto eravamo lontani da essa, ma io volevo solo portare del progresso. progress. Saipan è un'isola dell'Oceano Pacifico, è una località turistica perfetta per chi vuole trascorrere una vacanza rilassante in un luogo lontano da tutto. E la Federcalcio irlandese sceglie Saipan come sede del ritiro premondiale. È una scelta anche insolita per una squadra di calcio. Roy Keane comincia a preoccuparsi già quando gli dicono dove si deve andare. E poi, arrivato a destinazione, lui vede materializzarsi le sue preoccupazioni. Quel posto non è adatto alla preparazione di una Coppa del Mondo, le strutture sono inadeguate, il campo da gioco è pessimo, i giocatori sono costretti a mangiare panini al formaggio perché sull'isola nessuno fa piatti di pasta. E insomma, l'umore di Roy Keane è già pessimo e manca un mese all'inizio della Coppa. Rilascia un'intervista al giornale The Irish Times e lì non ha filtri, attacca duramente i vertici della federazione. Le sue parole fanno rumore e scatenano un terremoto all'interno della squadra. L'allenatore Mick McCarthy riunisce i suoi giocatori, chiede spiegazioni al capitano. Keane si sente messo sotto processo dal tecnico, perde completamente il lume della ragione, la sua lingua velenosa colpisce in pieno il CT, che non crede alle parole di un Roy completamente fuori controllo. Mick, sei un bugiardo, un fottuto segaiolo. Non ti consideravo come giocatore e adesso non ti considero come allenatore e non ti considero come persona. Sei un fottuto segaiolo e sai dove puoi mettertela la Coppa del Mondo? Non ho alcun rispetto verso di te. L'unico motivo per cui ho a che fare con te è perché in qualche maniera sei diventato l'allenatore della squadra del mio paese. Puoi ingoiarti le palle, sporco inglese, che non sei altro. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Stiamo raccontando la turbolenta storia di un irlandese trapiantato in Inghilterra, quindi già partiamo insomma in maniera complicata. L'irlandese Roy Keane, capitano della nazionale e colonna portante del Manchester United di Alex Ferguson, è un grande giocatore ma anche un giocatore duro che non si tira indietro di fronte a nulla, e anche di una persona diciamo così senza peli sulla lingua, un iracondo ben determinato a far valere le sue ragioni. Siamo arrivati ai mondiali 2002. L'allenatore dell'Irlanda, McCarthy, non può credere a quello che ha appena sentito dire da Roy Keane, che ha criticato praticamente tutto di lui in maniera violenta davanti a tutti gli altri. Insomma, convoca una conferenza stampa, non può fare altrimenti, annuncia che l'Irlanda rimanda a casa Roy Keane, il suo capitano, per gli insulti che ha lanciato contro di lui e contro tutta la delegazione irlandese. E d'altra parte, se non avesse fatto così, sarebbe stato delegittimato completamente. Quello doveva fare. Keane, per tutta risposta, annuncia che finché ci sarà McCarney sulla panchina dell'Irlanda, lui non vestirà più la maglia verde e che l'allenatore può anche bruciare all'inferno. Rock and roll portato all'interno degli spogliatoi. Neanche l'intervento di Ferguson fa cambiare idea a Keane. Lui rientra in Irlanda, passa l'estate con i giornalisti appostati fuori da casa sua in attesa di incontrarlo, mentre magari fa una passeggiata col cane. Insomma, ha un'attenzione mediatica clamorosa rivolta contro. Addirittura si parla più di lui che non dell'Irlanda, che ai mondiali passerà il turno e uscirà subito dopo agli ottavi contro la Spagna. La vicenda, pensate, che è stata talmente importante in Irlanda che ha dato vita a uno spettacolo teatrale. Il titolo era I Keane, e racconta quello che era accaduto tra Roy e il tecnico McCarthy. E Keane torna a pensare alla sua squadra di club, il Manchester United, e lì lui è un atleta, è instancabile, peraltro è un vincente, 17 trofei in 12 anni, 7 campionati, una Champions League, una Coppa Intercontinentale. Passare degli anni, però, emerge anche il lato peggiore del suo carattere, una rabbia cieca che lui sfodera ogni volta che si sente in difficoltà. È una un'autodifesa irrazionale che però tende a rovinare tutto. Quello che accade nel 2005 con Alex Ferguson è un esempio perfetto dei suoi limiti caratteriali. La grande frattura nel nostro rapporto ebbe luogo nel precampionato della stagione 2005-2006, durante un periodo di allenamento in Portogallo. Arrivai là alla fine delle mie vacanze estive in Francia. Tutto lo staff e i giocatori erano ottimamente sistemati nelle loro villette, ma mi attendevano brutte notizie. Il mio vice, Carlos Queiroz, stava avendo dei problemi con Roy. Mi disse che considerava le case di Vale do Lobo inferiori ai suoi standard e si rifiutava di alloggiarci. Secondo Carlos, Roy aveva rifiutato una prima casa perché in una delle stanze non c'era l'aria condizionata e una seconda per un problema simile. La terza, che vidi, era fantastica, ma Roy non la volle, preferendo stare con la famiglia nel villaggio vicino, Quinta do Lago. Quando il soggiorno si concluse, mi decisi a convocare Roy per chiedergli di scusarsi con Carlos, ma non ne volle sapere. Un giorno stavamo discutendo e lui mi disse: «Lei è cambiato», risposi. «Roy, se sono cambiato è perché oggi non è ieri. La situazione ora è diversa. Dici che sono cambiato, lo spero. Non sarei riuscito a cambiare se non fossi cambiato. Lei non è più lo stesso uomo», disse lui. Fu un vero e proprio litigio. Gli dissi che aveva perso il controllo. «Sei il capitano e non hai dato l'esempio agli altri giocatori. Non ti abbiamo chiesto di vivere in un tugurio». Forse la verità è che Keane a quel punto della sua carriera comincia a sentire che il fisico non gli permette più di essere il giocatore di una volta, e lui è un giocatore che ha bisogno di essere in forma perfetta, perché non è un funambolo, non è un tecnico eccelso, è un combattente. Capisce che qualcosa sta cambiando e comincia a rivolgere, come dire, la sua attenzione, la sua forma mentis verso il ruolo di allenatore, e questo a Ferguson non va giù. Lui sta cominciando già a fare l'allenatore mentre fa il giocatore. La goccia che fa traboccare il vaso arriva quando Keane rilascia un'intervista al canale televisivo del Manchester e ne ha per tutti: per Richardson, per Fletcher, per Smith, per Rio Ferdinand, per il portiere, per Van der Sar. Insomma, li fa a pezzi. Ferguson è messo alle strette, non può far finta di niente perché sa quanto fanno male le parole di Keane. Convoca la squadra nel suo ufficio, mostra loro il video prima che venisse trasmesso, e l'allenatore racconta con queste parole quello che è accaduto quel giorno. La parte più dura del corpo di Roy è la lingua. Ha la lingua più crudele che si possa immaginare. Potrebbe mettere in difficoltà il più sicuro degli individui con quella lingua. Ciò che notai discutendo con lui quel giorno furono i suoi occhi, che cominciarono a farsi più piccoli, quasi fossero palline nere. Era inquietante, e io vengo da Glasgow. «Deve andarsene, Carlos», dissi. «Al 100%», disse lui. «Sbarazzatene». Il cervello di Keane ha un nuovo blackout, come quello avvenuto a Sapian lì per i mondiali. Chi prova a tenergli testa viene ricoperto da insulti di ogni tipo. Roy è fuori di sé. Qualche giorno dopo viene convocato da Ferguson nel suo ufficio e gli viene dato il ben servito. Roy accetta la decisione dell'allenatore, ma è sconvolto. Sale in macchina, piange lungo tutto il tragitto che lo porta a casa. Non è facile per lui lasciarsi alle spalle 12 anni e mezzo di successi di Manchester United, che era una sua seconda famiglia. E poi non è facile accettare il fatto che la carta d'identità comincia a parlare chiaro. 34 anni sono tanti, e soprattutto se hai un gioco, come dicevo prima, totalmente fisico. C'è per lui un'ultima opportunità: accetta l'offerta del Celtic Glasgow, parte per la Scozia per giocare la seconda parte del campionato 2005-2006. Roy Keane ricomincia da Glasgow, sponda Celtic, si butta a capofitto in questa nuova avventura, anche se è già un calciatore affermato. Lui vuole dimostrare di essere ancora quello di una volta. In realtà il fisico non ce la fa più. Dopo il primo allenamento lui non riesce neanche a alzarsi dal letto, la cartilagine dell'anca è totalmente consumata. Anni di battaglie sui campi inglesi hanno lasciato il segno. Keane deve fare i conti con la realtà: alla fine giocherà meno di 20 partite e alzerà bandiera bianca. Nel giugno del 2006 Roy Keane annuncia il suo sofferto ritiro dal calcio giocato. Una decisione difficile ma inevitabile. Sì, dentro di me c'è davvero un pulsante di autodistruzione e mi fa soffrire. Quando bevevo scomparivo per giorni, era il mio modo di staccare la spina senza pensare alle conseguenze. Era tempo per me, un atteggiamento autolesionista, adesso me ne rendo conto, ma è è un istinto che provo ancora. Non la voglia di bere, ma quel pizzico di follia, di irresponsabilità. Quando torno a Cork, a volte ripiombo nella vecchia routine e mi dico: adesso esco e cerco qualcuno con cui litigare. Ogni tanto non capisco bene cosa sia meglio per me. Ed è per questo che sono molto religioso. A me ci pensa l'omino lassù. Devo solo avere un po' di fede in lui. Ho anche imparato a chiedere scusa abbastanza in fretta, se penso di aver superato i limiti. A volte però lo faccio solo per chiudere la questione e voltare pagina. Non fa neanche tempo a rendersi conto di non avere una nuova stagione davanti che arriva una proposta a allenare il Sunderland. La squadra deve giocare in Championship, che è la Serie B inglese, e senza allenatore a pochi giorni dalla fine del mercato è una situazione difficile che stimola Keane a accettare, si butta a capofitto in questa nuova avventura, una nuova vita, un ruolo delicato come quello del manager, anche perché in Inghilterra l'allenatore non è solo un allenatore, è un manager a tutto tondo, si occupa di tutto, e lui sembra essersi adattato bene al nuovo lavoro, vince il campionato, poi però le cose si complicano e comincia a litigare, questa volta con i proprietari, comincia a farsi vedere meno al campo di allenamento, insomma viene messa la parola fine sulla sua avventura a Sunderland. Gli arriva una nuova occasione, Ipswich Town, qui va ancora peggio, emergono tutti i suoi limiti, ancora una volta lui ha schiacciato il famoso tasto dell'autodistruzione, manda tutto all'aria, ancora una volta. Il falco, il falco, il falco, e il gabbiano. Dopo le esperienze negative sulle panchine del Sunderland e soprattutto dell'Ipswich, sembra che per Roy Keane, il protagonista della nostra puntata, non ci sia più posto nel mondo del calcio. Stavolta però quella lingua affilata che gli ha causato tutti i problemi che ha avuto in tutta la sua carriera, quella lingua sembra giungere in suo soccorso. Nel corso degli anni sono state tante cose diverse, ma a volte non saprei dire di preciso quale sia il mio ruolo. Sono un marito e un padre. Sono un uomo di Cork, un commentatore televisivo, un editorialista sportivo e sono stato un giocatore con la testa rasata. Forse lo siamo tutti, non lo so. Sono stato un allenatore, un po' distaccato dai miei ragazzi, anche se avrei tanto voluto essere più presente. Roy Keane diventa uno dei tanti ex calciatori che vengono scelti per commentare in TV le partite del campionato inglese e della Champions League, però lo fa alla Roy Keane, giudizi lapidari, schiettezza, scambi di opinioni infuocate con gli allenatori e con i calciatori che vengono intervistati. Peraltro lui probabilmente sfrutta la sua nuova posizione anche per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Ovviamente il suo bersaglio preferito è Sir Alex Ferguson, l'uomo che ha amato e dal quale poi si è sentito tradito, e lì lui non risparmia mai le critiche, la tensione cresce, lo racconta lo stesso Ferguson nella sua biografia, il segno di un rapporto che è arrivato ai minimi termini dopo tanti anni di vittorie assieme. Nella stagione 2011-2012 ci fu un'altra discussione quando Roy criticò i nostri giovani dopo la sconfitta a Basilea che ci fece uscire dalla Champions League, e io risposi chiamandolo commentatore televisivo. Qualcuno potrebbe essersi fatto impressionare dalle sue considerazioni in televisione pensando: beh, ha le palle per criticare Alex Ferguson. Dal momento in cui divenne un commentatore televisivo sapevo che avrebbe preso di mira lo United. Nonostante siano passati tanti anni, Roy Keane rimane tristemente famoso per quello che ha fatto in campo, soprattutto per il fallo su Holland, che rimane uno dei video più cliccati su internet, insomma è diventato uno dei simboli della violenza su un campo di calcio. Qualcuno peraltro ha accusato Keane di aver causato il ritiro anticipato di Holland, in realtà questo è un falso mito, smentito anche dallo stesso Holland, che ha confermato di essersi ritirato per problemi al ginocchio sinistro, e mentre Keane gli era entrato dall'altra parte, diciamo nel famoso derby del 2001, insomma proprio la fake news classica. Holland dopo quel fallo aveva giocato col City, con la nazionale, e il suo ritiro l'aveva comunicato solo mesi dopo, scagionando Keane da questa accusa. Però rimane comunque nell'immaginario collettivo il fatto che lui questo fallo l'abbia premeditato per 3 anni, covando una vendetta sul suo avversario. Con tutti gli alti e bassi che ho avuto nella mia carriera come giocatore dell'Irlanda, quando ho ricevuto la chiamata da parte di Martin O'Neill come assistente allenatore, non potevo che accettare l'incarico. Mi sono sentito adeguato. So che tante persone hanno questa immagine di me, di uno che sbraita per ogni minima cosa, ma non è vero. Io sono tranquillo, vivo le partite con molta calma. Quando mi trovo in uno spogliatoio sono la persona più felice del mondo. Qualunque possa essere il risultato finale, e ne abbiamo avuti di risultati negativi ultimamente, se so che tutti i giocatori hanno dato il 100%, mi basta questo, davvero. Nonostante il passato burrascoso con la maglia dell'Irlanda, Keane viene scelto da Martin O'Neill, allenatore, come assistente in nazionale. È un'occasione che lui non può lasciarsi scappare, la prende al volo e vuole cancellare l'immagine, lo abbiamo sentito anche dalle sue parole, cancellare l'immagine che la gente si è fatta di lui, di quello del matto che sbraitava in campo contro compagni avversari, che dalla panchina ne diceva di ogni tipo ai suoi giocatori o a quelli della squadra avversaria o all'arbitro, insomma, ma ha una nuova posizione che forse gli calza a pennello, forse rende al meglio proprio come assistente, come collante tra la squadra e lo staff tecnico. Certo, qualche volta quando viene mandato davanti ai microfoni dei giornalisti viene messo in difficoltà e per difendersi fa quello che sa fare, cioè mena con le parole, arrivano le sue frasi al veleno, e lui è come un serpente che si esce dalla cesta appena viene attaccato e non guarda in faccia a nessuno. L'Irlanda delude in Nation League e allora salta la panchina di Martin O'Neill e con effetto domino anche quella di Roy Keane. Insomma, si chiude un'altra pagina di questa carriera, ma siamo sicuri che Keane ci darà ancora qualche sorpresa, perché lui non è solo un ex calciatore, un allenatore, un commentatore, è prima di tutto un uomo che fa fatica anche a tenere la bocca chiusa, che dice quello che pensa, magari non riuscendo a gestire i propri umori, però ci piace il fatto che lui sia uno che non abbassa la testa di fronte a nessuno, un testardo, forse un cattivo, meglio un cattivo di un buonista. Senza di lui probabilmente oggi parte di questo sport sarebbe diverso. Ecco, di Keane ricordiamo questo e gli facciamo gli auguri, cioè continua a essere quello che sei e sicuramente troverai ancora spazio nel mondo del calcio. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite sulle quali puntare il mio microfono, scrivete a ilfalcoilgabbiano@radio24.it, venite a cercarmi sui nostri social, perché a me fa piacere, io non mi arrabbio. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Fabio Donolato, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.